accendi il pazzo e accendi. Vola. Vola. Allaga. Prima manca il ruccio. Sento 10, c'è qualcuno? Hola, sezione 10, c'è qualcuno? Siamo avanti sul 10? Vabbè. Al mio canale, dimmi. Se ci scendi poco ossigeno. Com'è forte? Un bel forte. Ma forte di radio o di segnale? Di segnale di radio pure. Dai, ti posso garantire, se non ci credi, mando la foto, sono meno di uno. Io questa radio non l'ho mai toccata. Ascolta, sto facendo una comparazione di antenna. Sono col baracchino però, per avere più un segnale migliore, dai, perché quello là c'ha troppi picchi di modulazione. Com'è il segnale così con la Mantova? 9,25 questo è con la Mantova. Guarda con la commutazione, che commuto con la J-Pod. Com'è adesso? 1, 2, 3? 9,30, 5 punti hai guadagnato. Allucinante questa antenna. La radio rimane la stessa, nulla, tutto a posto. Fa parlare. Guarda, 1, 2, 3, 4, prova radio, prova, va bene? Prova senza così, nell'altra posizione. Guarda, questa è la posizione numero 1 ed è la J-Pod, perché mi dà 5 watt in più, capito? Questa è la J-Pod, mentre questa invece è la Mantova. Il segnale per i 5 punti, la radio appena leggermente più chiara con l'altra posizione, quella più bassa, col segnale più basso. Col segnale più basso, aspetta però allora che lo correggiamo. Chi è che sta chiamando? Chi sei avanti? Avanti. Chi sei? Non ho capito. Appena avevamo tempo, grazie, stiamo con l'antenna là, mi sono rotto le scatole per i segnali bassi, così punto e me ne esco da mezzo, perché c'ho sempre questo QRM a bomba. Io infatti ho attaccato il baracchino, anche col baracchino c'è un sacco di QRM, mentre col 4.30 no, vabbè. Ascolta, vabbè, allora rifacciamo la prova, che ho leggermente corretto i watt del baracchino, li ho abbassati proprio quasi a zero, così il segnale com'è? Quasi 9.25, dai, diciamo 9.25 quando parlo. Ok, 9.25, mi interessa se rimangono gli stessi watt, vediamo se aumenta. Questa è la Mantova, questa è la J-Pod, va meglio così? Sì, superi anche 9.30, un pelucino più da 9.30, la voce è un pochettino più piena, dai. Ok, allora, così ho tolto i toni all'MB più 5, sto usando l'MB più 5, va meglio? Aspetta, prima di dopo altro, aspetta un secondino, voglio vedere, così ti do la differenza esatta. Prova a parlare. Allora guarda, così siamo con la J-Pod, questa è la J-Pod, adesso commuto, questa è la Mantova, 1, 2, 3, 4, 5. Allora dovresti abbassare appena la radio, sei troppo forte la radio, un peluzzino, o allontanati dal microfono qua. Allora aspetta, mi metto gli occhiali perché non so manco quanto è questo microfono. Allora, Allora, abbassiamo un peluzzino, lo mettiamo così, guarda, così va bene? Non c'è un bado nulla, abbassa ancora. Ehi, gira, me lo vuoi abbassare tutto, guarda, vedere, 1, 2, 3, 4. Così va bene se non alzi la voce, sei al limite proprio. Addirittura. Allora, questa è la Mantova, mi interessa se la modulazione rimane uguale, ok, a parte i watt che aumenta sicuramente perché da una 5 ottavi a una 8 ottavi il discorso cambia. Allora, così è la Mantova e questa è la J-Pod, va bene? Sì, appena legge la differenza si nota l'intensità di segnale, comunque il livello è uguale, appena l'altra rimane un po' più naturale con la prima posizione col segnale più basso. Ma ci hanno detto che aumentava di 5 punti e allora non cambia niente. Allora questa, ti ripeto, è la J-Pod, quant'è il segnale? No, sto parlando del segnale, certo che aumenta di 5 punti, io sto parlando di radio, tu mi hai detto che ogni telefono, per carità. Mi pare che sia stato un break, vieni avanti, io sto facendo una prova, poi chiudo. Chi è? Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Quindi confermi, questa è la J-Pol 1234 e questa qua è la Mantova, c'è differenza? Non ci sono dubbi, 8 ottavi rispetto a 5 ottavi è 8,50 m, quindi rimettiamo la J-Pol, eccola qua, questa è la J-Pol. La radio va bene, Claudio? Sì, super 5 a nuova, sì, è è 8,50 m di antenna, è uno stilo tutto in alluminio con praticamente la J-Pol attaccata. Aspetta un attimo. Scusa un attimo, le prendo subito, che è arrivata gente, c'è anche Roberto intanto, anche al telefono, ok? Ehi, ehi, allora lascio tutto acceso qua, dai, che è arrivata un attimo gente, il mio vicino mi ha portato della frutta e verdura, adesso la smisto un attimino poi riprendo, ok? Comunque le prove sono fatte, la J-Pol se la mangia la Mantova, va bene, a dopo, grazie. Sono rientrato, ci sei ancora qua? Hola? 110, c'è qualcuno? Cazzo, mi radio, va a passare un pochettino, con cosa stai uscendo? È un po' così, un po' sporchina la radio, la volta andavi meglio con il coso del più 4. Diciamo, ti ascolto ma non è un granché di radio, molto forte però non è molto molto nitida, non è, è un po' sporcata, dai. Perché forse sono troppo vicino al microfono, non so proprio appoggiarmi appena, ti stanno chiamando un pochino, poi ha migliorato. Sì, però ti ripeto, probabilmente non si addice bene a quella radio lì, per questione di impedenza. L'MP4 considerando che è un microfono più economico rispetto al Thunder, esce meglio. Sì, forse è perché sei più vicino rispetto a come è buono. Sì, no, no, naturalmente ti ascolto, dai, però ho considerato che in certe situazioni ti ho ascoltato meglio, ti ho dato soltanto la mia opinione, basta, poi solamente se ti va bene così va più che bene, dai, non è eccezionale, è solo quello che devo dire. Sì, può essere, va bene, c'era Spartu, ecco, poco fa, si è allontanato un attimo, sta provando una nuova antenna, ha avuto toccato facendo delle prove, sono entrato, andava molto forte, tu l'ha messo la G-Pol, sì, stavo parlando anche io prima di te e poi mi hanno chiamato al telefono, ho interrotto, ho richiamato e non c'era più, probabilmente si è allontanato. Ok, mandami, come si chiama, Claudio, il tuo numero di telefono via Messenger, perché non ce l'ho più, l'ho perso. Il mio, ehi, c'è il numero del tuo padre, il numero di casa, però mi manca il tuo. Non darlo a nessuno, soprattutto ai uno che sono tanto affetto, perché sono una persona affidata, lo posso dare a Claudio perché li conosco, ma non divulgate il numero, capito, ad altre persone, perché sono davvero molto riservato e con telefono, capito, non è che lo do a tutti, perché di solito sento le persone via Facebook, quello così, capito, radio, a dare un numero sono un po' troppo, che lo posso dare, ma non sono troppo. non mi permetterei mai. Quando mi chiedo il numero di qualcuno chiedo sempre l'autorizzazione al titolare del numero. Poi non ti preoccupare, se hai difficoltà non me ne dai, era soltanto così per averlo, perché molte volte chiamavo tuo padre per non disturbare, era lavoro, è capitato qualche volta, però il tuo me l'avevo tempo fa, però poi non me lo ritrovo. Infatti l'altra volta quando ho mandato il messaggio con Messenger non mi rispondevi, ho detto ma perché non risponde, e poi mi avevi detto che è uscito fuori. Infatti avevo chiesto a tuo padre, mi ha detto chiama la numero fisso, sempre per quel discorso di quella storia di cos'era, di Marsala, era piccato per dirti di quella roba lì e basta. Tempo, però sempre piazza l'antenna, non riesco a trovare un tempo per mettermi sull'antenna, devo sistemare altre cose e non le faccio, ok? Alla fine ho detto vabbè, infatti per quello ti avevo mandato il messaggio, se potevi fare tutto tu, ma mi detto devo essere personalmente, che cosa ti chiedono, documenti? C'è qualcuno? Ora. Sì, ci sono. No, no, molto peggio di prima, adesso sembri completamente saturo. Sì, sono stato un pochino, troppo attaccato adesso. Provo a togliere l'amplificatore, stacca tutto. Perché è l'amplificatore che ti sta creando problemi a te. Ti mangia la radio. Sì, va meglio rispetto all'ultimo passaggio, però non è la tua, non è la solita. O lì stai troppo dando ingresso, cioè l'ingresso è troppo alto, non lo so, perché sembra che sta saturando. La voce è comprensibile, però non è chiara come senza essere attaccato. Ti brucia un po' di radio. Ma io ce l'ho a 8, sono meno di più 4, è diverso questo rispetto all'altro. No, adesso va benissimo, adesso sei perfetto, ottimo. E allora lo lascio con il valore regolatore sbagliato e stiamo spingendo un po' troppo. Sì, molto più comprensibile, guardate, rimaneva troppo, secondo me è più questione di impedenza, magari non riesce a rendere lo stadio preamplificazione del microfonico dell'apparato, non riesce a rendere come per dire, dovrebbe rendere con la tenere. Io col Tanner vado alla grande col patch, meglio di qualunque altro microfono, magari poi lo metti su un altro apparato, quel Tanner non rende come un ZG, per dire, un ZG che rispetto al Tanner nel patch fa ridere, se per dire lo provo su un altro apparato, lo ZG va meglio del Tanner, tutto dipende dagli abbinamenti e come modula l'apparato. Aspetta, sì, sono qua. Buonasera a lei, cavaliere Gianfranco. Il cavallo me lo sono mangiato, era più buono. Buono? Sempre Gianfranco. Stavo ascoltando a Claudio. Claudio va tremendamente basso, strano rispetto a come lo sentivo le altre volte, eppure non è che sia molto, molto coperto. Vabbè che poco fa, cioè probabilmente anche adesso ci sono su questo canale i tedeschi in FM, stanno arrivando fortissimi, forse da quello. Ma lui ha fatto delle prove poco fa Gianfranco, ha provato attaccato e staccato. Ma quando è staccato praticamente era S3 credo, poi è risalito al 9, ma dalla zona in cui è, strano. Oh, tieni presente che lui è molto chiuso per Sassari, c'è tutta la collina di scala di gioco, è chiuso completamente, l'antenna è bassa, ci avrà 2 metri di palo, anzi per come arriva a me arriva 9 più 20, e staccato arriva quasi 9 10, e arriva più che bene, infatti mi meraviglio, però è chiuso, lui magari se parti dall'altra parte verso Zirin, da quella zona lì arriva a bomba, qua Sassari è un po' sacrificato. Vediamo se è rientrato Claudio, avanti a te il mic. Sì, ti ascolto, però non è eccellente la radio e preferivo l'altro sinceramente. C'è anche Gianfranco, te lo rilancio e così ti dai i commenti che stava facendo perché riguardo il segnale tuo. Avanti Gianfranco. Sì, non so neanche se mi sente a questo punto. Tu mi senti Claudio? Ciao Gianfranco, buonasera, ben sentito. Sì, io ti ricevo con un Santiago di 3 e una radio di 4, tu sei un po' bassino, però non so se sei collegato, come capito hai in che zona stai modulando, capito hai? Io sono per Sassari, come te l'ho detto, poco fa sono più che altro fuso, perché sono la montagna a scala di gioca e rispetto alla zona per Ottieri, sì, io sono più aperto, arrivo a monta, infatti quando parlo con Ottieri, mi vedo sempre il mio concetto che sono gli alunni, andando alla grande e niente, io capito hai oggi sto usando un Comstat 25.000 Lafayette e con un carnet più che sono adesso, poco fa ho fatto un'altra prova con un microfono diverso, con un MV4 che adesso lo voglio riattaccare perché Roberto mi ha detto che con quello andavo qualcosina meglio e niente, già fare poco che sono in condizioni di lavoro, riprendi a quel microfono. Sì, Claudio, io ti sto trasmettendo con un watt e mezzo, in quella zona arrivo bene, te lo dico perché ho fatto delle misure, so benissimo dove sei tu, diciamo, per l'esattezza tu sei dove c'è anche un grosso affresco, un grosso murales, e da quella zona tu figurati io arrivo qua con gommino, ecco, gommino su un'altra banda, ovviamente in UHF, però per dirti che la zona, dove sono, è abbastanza aperta verso di te, ecco. Il problema è che ci sono anche dei tedeschi che stanno arrivando fortissimo, come dicevo a Roberto. E queste prove, guarda caso, le ho anche ripetute, perché lo faccio spesso, proprio di lì, esattamente dove c'è l'ufficio postale, non dove sei tu, ma dall'altro lato, che è ancora più coperto. Tutto lì, riprendi Roberto. Guarda, io ho un amico che è andato qualche volta qua in radio, e sono da un po', perché poi ha partorito la moglie quest'estate, probabilmente è impegnato. Lui ha un'applicazione, attaccata al computer, che tu metti la posizione di trasmissione, lui l'attacca al ricevitore e ti dà la seconda della morfologia del terreno, ti dice ci sono i punti, per dire, dal verde si arrivare al punto rosso, diciamo il punto dove arrivi più forte il segnale, come fanno il grafico della distribuzione del bacino, diciamo, bacino di trasmissione. Ed è un bel programma, no? Lui lo ha fatto con la sua stazione e ti dice, per dire, qua in questa zona c'è questa collina che attenua di 3 dB, su quell'altra punta si è aperta e guadagni 5 dB, e c'è un programmino da attaccare l'interfaccia alla radio, a base della potenza che ti esce, lui imposta la potenza, li metti 5 watt o 10 watt e ti dà il grafico sul piano orizzontale, naturalmente, il grafico, ti fa proprio una simulazione di come fanno i broadcasting, quando devono montare un ponte ripetitore, fanno le simulazioni al computer, lui riesce a farlo con la radio. Ho detto, quando capito vengo da te, me lo dai, non so se l'hai mai utilizzato tu, Gianfra. Sì, ma guarda, ci sono tanti programmi, ce n'è uno che è micidiale, che è quello che usano per le celle telefoniche, perché dire, la copertura deve essere certa e soprattutto non deve andare a impegnare le celle vicine, quindi deve essere molto precisa. Io queste prove quasi sempre le faccio da solo, perché tutte le radio ci hanno dato risposta e quindi ti danno anche sia posizione sia segnale e tutto quanto. Riprendi Claudio. Scusate per un attimo, mi ero lontano, ci risentiamo troppo, scusate, riprendete voi. Sì, avanti Claudio. Dalla posizione delle stazioni, detto in parole. parole così povere, e c'è una grossa rete, ed è in CB. Infatti ce n'è una che si chiama Solar, anche, che è alimentata a pannelli solari, su un'altezza 15 metri, sono stabile, ci sono le foto, e di fronte si vede il mare del nord. Tutto lì, e niente, le mie radio ci hanno incorporato il sistema, ti avvisano anche quando sta calando il segnale della stazione con cui stai parlando. Questo è una cosa molto, molto interessante che non sapevo, non ero in possesso di queste informazioni che mi stai dando, e infatti poco fa ho messo su 23, mi stavo girando un delta 1 e sembrava che stavano parlando di digitale, non so, forse un FP8, credo, una roba del genere, e si sentiva il rumorino, tipo quei rumori del FP8 che si sentono in 40 metri, in 80 metri più a sera, e capito, dai, sentivo un rumore del genere, non so se era questa roba qui di splatter che stavo facendo tutto, sentivo, e sì, io già avevo in rosso il sistema, sì, installato nel computer, ho fatto qualche collegamento con la Calabria, insomma, con l'Italia, ho fatto due collegamenti lì, però non ti dà la stessa soddisfazione a parlare con la voce, capito, perché è come chattare al computer, capito, poi la radio, così, fai partire il messaggio, la radio lo trasmette con quella roba che stavo dicendo io, non è molto interessante, però mi gusta comunque provare a vedere di cosa si trattava, e invece questa che mi hai detto tu adesso è molto ma molto più interessante, quindi. Sì, ma c'è un break sotto, facciamo venire avanti, buonasera, avanti. Ah, è una preparazione probabilmente. Io infatti non devo mai aumentare la potenza perché ho questo problema sia con i tedeschi sia con i russi, che appena aumento un pochettino subito arrivano tutti quanti. Mi stavo dicendo, quello che tu ascoltavi poco fa, se eri anche tu su quella frequenza, era il packet, capito, era una trasmissione in packet, sembra che trasmettono dei piccoli boost con rumore classico, no, magari li sentivi distorti perché di AM, loro sono in FM, fa quel quelli sono l'indicazione delle posizioni, capito? Sì, questo è il, infatti sentivo proprio un rumore del genere, sentivo, pensavo che era qualche digitale tipo l'FP8, mi sono detto, ma è strano, un banda CD, poi sono detto quel pedinta, ho detto, non l'avevo mai ascoltato, non l'avevo, invece è tutto un altro sistema che mi stai dicendo, capito, però era simile al rumore che fa il digitale FP8 quando trasmettono, però lì stanno parlando col computer, più o meno come il grosso, quello che c'avevo in parlato, capito, è molto utile quando ad esempio c'è molto QRM, molto QSP, capito, che non riesce a sentire quello che ti stanno dicendo a voce, allora vedi a quelli lì al computer questa cosa e riesci a fare un DSO, perché vedi quando ci sono questi disturbi o che non arrivi, vedi tramite questi suoni che riesci a capitare in software, che praticamente li sente dalla radio, e con questa cosa riesci a fare un DSO anche a lungo distante, perché l'ho provato, però io ho parlato soltanto con la Calabria quando ce l'avevo, e oltre non sono andato, capito, però di questo che mi stai dicendo tu è molto molto interessante. Farò le mie ricerche su questo che mi hai detto, quindi. Cosa dice, rispondiamo a questo, alla Repubblica Ceca che continua a chiamarci. Good evening, Czech Republic. Ma che, adesso non ci risponde. Vabbè, cosa sto dicendo? Sì, interrompo per il filo, poi non mi metto qui nulla. Sono sistemi proprio per trasmettere lontano, capito? Adesso c'è quell'FT8 che però è. A me personalmente non mi piace, perché è fatto solo da solo, quindi te ne puoi anche andare, lasciare la radio accesa e fai collegamenti da soli, e dato il sistema, per come è ingegnato, ricevi mezzo pianeta, quindi se c'è una buona antenna, praticamente sei sempre in DX con tutto. Con tutto il mondo, anche il 28 c'è sempre in funzione, sente tante chiamate. questo lì? Sì, può essere Gianfranco, sì, io so anche come si chiama il mio codificatore per il CV doppio che si collega all'apparato, quindi anche quando parlano in digitale, in un CV doppio, riesco a decodificare, vedere cosa si dicono i radioamatori, perché c'è un altro software installato nel computer, in pratica riesco a capitare tutto quello che dicono, è una figata proprio molto, molto interessante anche quello, però le PT8 e POS qui vabbè, li hanno perfezionati e fatti per i radioamatori, molti li usano anche in CV purtroppo, capito, però è come parlare al computer, nel suo radio ne fai poco niente perché devi scrivere sempre con la tastiera, per partire il messaggio con il mouse e la radio trasmette, capito, perché è collegata con l'interfaccia dei modi digitali, capito, quindi non c'è lo stesso gusto di parlare come stiamo parlando adesso e a me mi piace molto rimanere alla vecchia maniera, riprendi. Sì, beh, purtroppo no, anzi meglio, ce ne fossero che usassero i nuovi sistemi, invece sono tutti arroccati all'antica modulazione, come la chiamano ormai un po' tutti, perché proprio la M, a parte gli aerei, per motivi particolari, non la usa più nessuno, era broadcasting. Quindi, niente, è così. Cosa ti volevo dire? Porca miseria. La vecchia carogna. Vabbè, riprendi, dai. Sì, può essere. Sì, ovviamente è meglio sempre dotarsi di nuove tecnologie, provarle, però io resto sempre alla vecchia maniera, anche se è difficile adesso trovare, come si dice, comunicazioni in AM, come hai detto tu, perché l'AM è morta, purtroppo c'è soltanto qualche CP, gli aerei non modulano più di tanto, capito Gianfranco, però sono sempre belle cose, perché adesso è molto molto più difficile, vedi, con questi sistemi nuovi, perché ti devi installare il software, devi studiare come funziona, è tutto molto più complicato, capito, uno magari quando non ha la conoscenza di fare queste cose, che non è bravo magari con il computer, queste cose rimane sempre indietro agli altri, capito, io bene o male già mi arrangio a fare di questi lavoretti, c'ho anche altri software che mi codificano altri tipi di comunicazione radio, che non posso dire, capito, e capito, il globo digitale, che anche non le parlo, e capito, sono piuttosto attrezzato per ricevere queste cose, solo per fare ascolto, ovviamente, capito, perché più che altro sono molto appassionato di questa tecnologia, anch'io, però mi piace la vecchia maniera, praticamente come si modulava tanto tempo fa, riprendi. Sì, guarda, se vuoi ti faccio ascoltare quello che fa questa radio, ti faccio un passaggio in digitale, vediamo cosa ci capisci e se ci capisci. Con questo niente, perché usando il Constat 25 file non ho nessun software, niente collegato, bisogna provarlo attaccato al software per vedere cosa sta dicendo in digitale, capito? Adesso c'è tutto quanto scollegato, capito che soltanto l'Alfa Lima e la radio, non nient'altro, capito? Però puoi sempre provare, riprendi. Sì, ti faccio un passaggio giusto per dire cosa ti sembra. Allora, il digitale è quello, come si chiama, P25, è quello? No, non è il P25, il P25 è quello usato sia dagli spagnoli sia dagli americani e dalle forze politiche americane. È un altro sistema, io ne ho vari, anche per la trasmissione, quindi è così. Comunque era di voce, era un sistema via voce, quindi per trasmettere la voce, con la larghezza di banda di all'incirca di appena 6 kHz. E niente, e va molto, ma molto, ma molto più lontano dalla M, ma anche dall'FM. Sì, può essere, Gianfranco, ma io ho sentito simili, io in banda 400, capito, in UHF anche, li ho sentiti e sono riuscito anche a decodificarli, non posso dire di questi tipi di comunicazione si trattano, però sono riuscito a decodificarli, poi ci sono altri segnali che trasmettono il DMR, quelli sono più facili da ce ne sono anche altri che non nomino e quindi più o meno li conosco tutti. Questa era abbastanza orecchiabile che ho sentito e si assomigliava al digitale con il P25 che ti ho detto, capito? E, però si tratta di un'altra cosa diversa, e, però ne ho tantissimi e sono più assolutamente codifica e basta trovare quello cui va bene, alla fine è un gioco da ragazzi, di prima. Sì, ben inteso, tutto quello che tu decodifichi è tutta roba in chiaro, perché secondo dove vai, su che frequenze vai, ascolti ugualmente il digitale, ma solo il digitale, senza ascoltare il parlato, perché c'hanno criptature a livello abbastanza alto, ma anche quelle semplici, uno che non è ferrata materia, le viene un po' in salita a decodificarlo, capito? Quindi quello che senti tu è tutto in chiaro, non è criptato. Il digitale dicono che è criptato perché molti non riescono a decodificarlo, che è una cosa diversa, perché ci sono delle impostazioni particolari, se non metti le impostazioni giuste non lo sentirai mai, soprattutto per quello che riguarda il DMR, il Tetra e altri sistemi che sono anche in uso amatoriale, ecco, tutto lì. Sì, QSL, Gianfranco, sì, concordo con quello che hai detto, sì, sono per quelle trasmissioni sempre in chiaro, sì, non hanno la crittografia tipo il Tetra, o a volte viene c'è anche il DMR, però se non ti costa di codificarlo il DMR, capito, sempre parlando di comunicazioni in chiaro, e più che altro è simile al Tetra, se non ti costa a decodificare delle comunicazioni Tetra, che non erano cifrate, capito, però molte sono cifrate, ed è simile il Tetra al DMR, solo che il Tetra sono che abbiamo già togliato i punti, capito, però più o meno è la stessa cosa, perché basta che il DMR mettono la cifratura e diventa più o meno la stessa cosa, capito, sì, comunque stiamo parlando, sì, perché stiamo parlando solo comunicazioni in chiaro, sì, non sono tipografate, quindi. Sì, anche perché non è che ce ne siano tante, il Tetra poi spesso è anche fuori portata a causa delle frequenze che le hanno assegnato, che come tu ben sai sono sotto i 400, quindi sono una gamba esattamente tanto sputile, tanto sono tutte comunicazioni assolutamente segretate, sono a 390, 390 fino a massimo il 400, ma neanche ci arrivano i 400, e di lì c'è tutto il sistema NET, eccetera, perlomeno quello assegnato qua in Italia. Privati non ce n'è perché non sanno neanche cosa significa, c'è qualcuno qua a Sassari, ti posso dire che ce n'è solo uno che lo usa, di privato, che lo usa per lavoro, ecco, lo usano per lavoro, infatti sono su frequenze proprietarie. Tutti gli altri, un altro ente che lo usa è la Regione Sardegna, è sul progetto della protezione civile, ecco, quindi hanno quelle frequenze a livello nazionale assegnate alla protezione civile che sono veramente tante, tutto lì, però di norma sono in chiaro, ma ce ne sono, la maggior parte poi in realtà è criptata. E poi, guarda, molto divertente invece ascoltarti gli aerei che passano in HF, però. Cose bisogna essere settori che ci sono tanti sistemi, ma tanti, veramente tanti, e quindi insomma per tutti non è così semplice, ma soprattutto non è così semplice per capire quale sistema stanno usando. Io lo faccio in automatico e quindi la risposta non c'è, però per chi non è esperto obiettivamente è un po' un problema. Riprendi Roberto, non so se è perso il filo del discorso, ma stavamo parlando sempre di radioascolto praticamente. No, no, sono entrato adesso, ho visto che hai migliorato di gran lunga il segnale, complimenti Gianfranco. No, perché allora, come ti ho detto, appena ho aumentato 10 watt giù di lì, subito iniziano, stanno chiamando dalla Repubblica Ceca, no? E quindi mi dà fastidio anche a volte non rispondere, però qua in CB si può anche non rispondere. Trasmetto sempre basso di norma, anche perché non è necessario andare oltre, l'importante è che si capisca la radio. Tutto lì. Riprendi Claudia. Fissa, un segnale fortissimo, e tu vabbè sei quasi 9 più 20, ma tutto è radio molto forte, come anche intensità di modulazione, va benissimo. Quando attaccano la cosa, ieri c'erano lo stesso tedeschi, stavano schiacciando a quello di Usilo, che arrivavano a V10, che arrivavano più forti quelli di fuori. Sì, perché loro sono FM, capito, quindi anche probabilmente in FM hanno un po' di potenza in più e si sentono anche tra di loro molto più chiari di quello che non possiamo immaginare, perché io li sento, cioè non c'è paragone rispetto all'AM, è tutto un altro pianeta. E sto dicendo a Claudio che sopra nel 24, 23, cioè 24, 22, non me lo ricordo, è la 0, anzi la 2,35 come frequenza, c'è la rete packet che ho scoperto anche la posizione. E ci sono varie stazioni di cui i due BBS, diciamo così detti, i due server, sono uno in Germania e un altro è di lì in Olanda, e sono tutte delle cittadine piccole, dei paesi piccoli che sono rivolti verso il mare del nord, quindi soprattutto quello tedesco è molto spinto, diciamo se tiene in aria retta è oltre Londra, quindi sono molto, molto più su anche di certe città inglesi, ecco. Sono molto lontani, poi arriva una bomba. Li senti adesso. Gianfran, ricordami tu quanto ti arrivo io nelle tue coordinate. Aspetta che devo cambiare impostazione. Vado? Sì, adesso puoi andare. Allora, 1, 2, 3 prova, canale 10, vediamo quanto riesco a rompere i timpani. 9,30. Ok, tu c'hai qualcosa in più di me, comunque 9,35, no? Sto facendo un confronto di antenne, poi magari la potenza sarà diversa, però siamo più o meno lo stesso segnale, tu un pochettino più forte arrivi. Sì, poi non ho detto che gli strumenti siano così precisi, non è che... capito? Quindi 5 più 5 meno, non bisogna arroccarsi su questi così. Riprendi Claudio. Sono negativo, dice. Sì. sono positivi, non lo so. Sinceramente qua io non tocco mai niente, sempre le solite cose, anzi mi hanno detto che ero un po' più alto del solito di radio, infatti io sempre a uno, l'ho messo ancora a poco meno di uno. Cosa dici Gianfranco, i picchi miei sono negativi o positivi? Niente importante, fammi un fischietto. Vedi, le cose sono diverse da apparato a apparato, sul mio apparato sei ampiamente positivo, come picchi. Ho guardato anche l'alimentatore, 13,46, cioè, il multimetro digitale ha abbinato l'alimentatore, proprio ce l'ho sotto gli occhi, l'ho messo separato proprio per qualunque problema, sto sotto controllo tutto. Sì, Claudio, mentre invece da te ogni tanto noto, ma ripeto potrebbero essere anche i tedeschi che danno fastidio, noto che c'è una discesa di segnale, dopo risali di nuovo, dopo riscendi. Bianco, vediamo se vuole entrare qualcuno qua di queste delle zone nostre, avanti che vuole entrare su 10, sono riprendito Gianfra. Misma, ci sentono lontananza, va bene, due volte Gianfra. Sì, una volta viene anche male perché sono talmente forti che non si sa se uno di qua o uno di là, quindi bisogna un po' avere pazienza. Oggi poi è micidiale su tutta la banda, su tutta la banda che c'è questa cosa. Poco fa stavo ascoltando, Roberta, tra virgolette, un animale strano che si muoveva a destra e a sinistra, c'è presente il punto di cucito a zigzag, no? Faceva quel disegno, ma esattore, chissà cos'era? E buh. A 26,7 era giù di lì, magari sono sempre quei signori lì, perché comunque la trasmissione non era comprensibile, quindi ti puoi immaginare chi poteva essere, segnale abbastanza buono, però a zig zag, riprendi Claudio. Visto che lui sta bazzicando anche su frequenze un pochettino più alte, hanno ampliato con quella possibilità di quel nominativo di allargarti un po' più su di frequenza, mi confermi Claudio, mi dici fino a quando puoi arrivare? Thank you. riabilitato, ho sentito che dovevano ampliare per i DX con le bande lì, superare la frequenza dei 40 canali, andare a 27,525, a 555. C'era una normativa nuova, una proposta di legge a livello italiano, a livello europeo, che in certi paesi della comunità europea è già attiva la situazione, permettono di andare e fare DX collegamenti diciamo a lunghe distanze, andare un po' più su delle frequenze utilizzate per i 40 canali della CB, della 27 diciamo, e ti danno uno spazio di frequenza, non so di quanto era, almeno era una proposta che avevo sentito, come hanno eliminato l'obbligo di coso del contributo annuale eccetera eccetera, sono normative nazionali, internazionali diciamo della comunità europea, ho sentito di questa proposta. Prima magari 20 anni fa c'era affollamento di surba, adesso chi sa che ci sta, al 27 siamo 4 gatti, c'è questo amico di Cagliari, non c'è nessuno, mi ha detto a Cagliari non c'è nessuno, a Cagliari il vaccino di servizio è molto più importante come popolazione eccetera, fate che vai anche più lontano perché c'è il Campidano, una pianura per cui riesci ad andare anche più lontano, mi ha detto non c'è nessuno, e ogni tanto senti qualche camionista, lui fa molto radio ascolto, ha detto non c'è niente, infatti si è puntato sui satelliti, si diverte con i satelliti a fare bollettini meteo eccetera eccetera, decodificare qualcosa, bande aeronautiche eccetera, però mi ha detto non c'è nessuno, quando ho detto a Sassarie siamo la sera qualcuno lo sa, davvero cavolo, beati voi, ha detto bu, per cui di cosa stiamo parlando, cioè, se te ne vai anche a 555 a chi potresti rompere le scarpe, ma che non sei un balordo che usi potenze esorbitanti e radio diciamo disadattate eccetera. A Roma li cambia, li chiamano quelli lì, i cambiano passo, no? Cambio passo, capito? E sono al 46, li sento anch'io da molto spesso. Adesso chissà come escono e con quanto escono. Tutto lì. Riprendi roba. Ma guarda, io dico una cosa, a parte che sono talmente pochi, e poi qua in città che usano potenze, magari puoi arrivare a 150 watt, perché non c'è niente che ne usa di più. Quello più preoccupante è che i radioamatori stanno esagerando. Io vedo, prima si parlavano di 500 watt ed era una cosa, diciamo, entro le normative, adesso si parlano di migliaia di watt. Io ho conosciuto persone con 4 kW che escono normalmente, non è dire quando devo fare un collegamento in coso, dall'altra parte del mondo, le usano normalmente così, perché arrivano per 40 a Viterbo, per dire così. Poi se siamo molto attenti, la cosa i 10 metri con le armoniche, secondo che potenza gli dai, entri in mare aereo, lì fai danni grossi, anche se mi dirai ci avranno degli apparati HF, diciamo, di qualità, però magari ne è uno appena toccato, non so che cosa, disadattato, e lì fai danni grossi. Se entri in mare aeronautica, guai. Vabbè. Io questo è, guarda, il massimo che posso utilizzare in HF, che tra l'altro sta mettendo anche le ragnatele, infatti lo vedi spolverare, poveretto, e il coso lì quando viene da, guarda neanche lo leggo, lo seguo ancora, mi sono pure dimenticato, credo che sia, dovrebbe essere che in banda laterale sia tra 300 e 350 a seconda della banda, perché come sai poi su certe bande rendono di più, su certe altre rendono un pochino di meno, però non c'è, soprattutto con quelli che conosci tu, gli apparati, no? Anche gli americani si meravigliano che non c'è bisogno di lineare, perché in alto ricevono benissimo anche segnali bassi, e poi avendo 125 watt di potenza e te la danno realmente tutta, no? Non sono come gli 80 e 70 di molti apparati amatoriali, sono più performanti, capito? Quindi tutta la necessità del kilowatt è più una questione di contattori che altro, guarda. Guarda, io non faccio né nome e cognome, però già lo sapete, magari qualcuno è arrivato, infatti l'ho visto su internet, io questa cosa l'ho visto, il video l'ho visto su internet, l'interlocutore, cioè quello che ha ricevuto il segnale, ha fatto il video, è arrivato da questa zona della Sardegna, non diciamo in particolari, è arrivato a 9.40 in continente, un segnale in diretta, è arrivato a 9.40 e c'aveva 4 kW e mezzo, infatti ha detto cavolo alla faccia. Ti prendi qua? Ci sono quei camionisti che si mettono due o tre lineari accoppiati, ne ho visto uno, era più di 2 kW effettivi, e a parte poi guadagnare l'antenna, c'aveva 2 kW abbondanti in coso, 2002 accoppiati nel camion, ho dovuto mettere anche una LED, lì funzionava 24 volt, è una cosa esagerata, infatti per dire che tu sei arrivato dove arrivo a 7 e tu arrivi 9.40. Non lo so io dico conta sempre l'antenna, i soldi se devi investire investi in un'antenna e basta. Ma guarda, io ovviamente non in modulazione voce, però in modulazione dati sento di norma l'Argentina eccetera, e guardando anche le caratteristiche, perché sono navi, le navi hanno tre classi di potenza, una è quella che sale a 125 watt, poi c'è, ci sono apparati da 250 e poi quelle da 500 ma sono veramente rarissimi, quindi fatti conto sono antenne verticali banalissime, le puoi vedere anche sui rimorchiatori di Porto Torres. Tieni presente che di norma gli accordatori di quel tipo automatici sono da 250 watt, quindi fai che trasmettano 200 watt quegli apparati lì, però si sentono da distanza che non hanno problemi, ecco, capito? Quindi i problemi ci hanno solo i radiamatori a non sentire. Oh, scusate, allora io devo andare, mi hanno chiamato a mangiare, magari se c'è qualcuno dopo ci aggiorniamo, dai, vi saluto, io vado a mangiare la pappa. Ciao Gianfranco, ciao Claudio e tutti gli eventuali amici sul canale 10. Ciao ciao. Pappa, Roberto, saluto, mi tolgo adesso la parola di bocca, perché anche io devo salutarvi, devo andare a fare carico battesia pure io, dai, un super saluto, Roberto, ti auguro buona carica anche a voi quando la fate, una buona serata e capito? Vi ringrazio per il passo, io faccio passo il cuore di SK, saluto a te, a Gianfranco, vi ringrazio del passo nuovo e ci sentiamo nei prossimi video, io faccio il cuore di SK, un saluto eventuale agli amici d'ascolto, ciao a tutti, buona serata a tutti, quindi Gianfranco. E anche io vi devo seguire a ruota, perché ogni tanto tra una chiacchierata all'altra passa il tempo e non ce la accorgiamo. E poi bisogna scappare via di colpo come spesso mi capita. Ciao Claudio, alle prossime, ciao Roberto, buona serata a tutti, anche ovviamente a chi ascolta, ciao. Ciao, ciao Gianfranco, buona serata a tutti, buon video continuo per me, ciao a tutti. Attenzione canale 10, canale 10, copiate Antonio K. Attenzione canale 10, copiate Antonio.